Amici sportivi, quasi tutto pronto, vedete, per l'ingresso in campo. Si comincia! Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. It's astounding. Time is fleeting. Madness takes its toll. But listen closely. Not for very much longer. I've got to keep control. Per Tevez, si libera Tevez, va via, entra in area di rigore, Tevez col sinistro schiacciato, contatto, tutto regolare, dice l'arbitro, non c'è fallo secondo lui su Marchisio che allarga le braccia. Contatto c'è. Barriera con una mano, dice Pirlo, calcio di rigore, calcio di rigore. Pallone tagliato sul secondo palo, Caseres, c'è un abbraccio, calcio di rigore. Calcio di rigore per la Roma, fallo su Totti. Pallone centrale ancora per Llorente, lo fa girare per Pogba, c'è un contatto. Calcio di rigore di nuovo. Vidal. Vidal è in fuorigioco. Fuori gioco su questa palla perché è proprio è davanti al portiere. Allora mutuiamo la musica dalla pagina 5 della Gazzetta dello Sport di oggi. Rocky Horror Picture Show. Poi mi sembra che comunque il tema della puntata stia già in un sms che mi arriva. Ladri d'Italia, vergogna Juve, Gianni. 800 24 00 24. La partita del momento, non dell'anno, non del campionato, perché è troppo presto. La partita tra le due squadre più forti finisce, come tutti sapete, questo 3-2 pesantemente condizionato dalle decisioni arbitrali. Si torna a parlare di centimetri, di dimensioni dell'area di rigore, torna a parlare Francesco Totti dicendo delle cose molto pesanti. Poi c'è una ridda di cose che rendono molto più romanzesca questa partita. Come sapete, ieri è tornato un po' a sorpresa Pirlo, non c'era Vidal, adesso sto leggendo una notizia, giovedì una notte brava tra discoteca, qualche brindisi di troppo e una lite in strada ripresa da un passante quando erano le 5 del mattino. Conseguente ritardo all'allenamento del venerdì, seppure di pochi minuti, questo per Arturo Vidal che non è partito titolare ieri. Tanto per aggiungere ulteriore sale e pepe a questa sfida. Mi fate sentire subito le parole di Totti che sono state, insomma, sono state forti, pesanti. Brutto dirlo, ma sono anni che capitano sempre gli stessi episodi e alla fine ci condizionano le annate, perché tanto o quelle buone o quelle cattive vincono sempre. Con le buone o con le cattive vincono sempre. 800 24 00 24, questo è il tema del giorno o uno dei temi del giorno, perché poi ce ne sono altri, perché l'Inter che prende altri tre schiaffoni a Firenze è una notizia, poi ci sono preoccupanti storie che arrivano dalla Formula 1 con Jules Bianchi che è ancora in critiche condizioni. Ma adesso occupiamoci di calcio e insomma ci sono stati questi rigori, c'è stato quel gol meraviglioso di Bonucci con una posizione irregolare dello stesso Vidal che poi è entrato. Su tutto questo c'è da fare chiarezza, perché leggo: a stretta interpretazione il gol di Bonucci può diventare regolare perché non conta più il cono di visione di Storuski che comprende Vidal, come si vede dalle varie immagini che abbiamo a disposizione, ma è stato introdotto un concetto molto rigido: il giocatore deve ostruire la linea di visione, insomma sempre più complicato. La sensazione è che quel gol fosse irregolare, la sensazione è che no, non è una sensazione, è una certezza che il fallo di mano di Maicon non ci sia, perché quello non è un fallo di mano. La partita è stata molto bella peraltro e pesantemente condizionata da questi episodi, lo sappiamo tutti, è inutile far finta di nulla, dunque molto serenamente ne parleremo. 800 24 00 24 al numero verde, Franco Piantanini l'autore di questo programma, Fabio Cantadore il capitano in regia, Claudia Schiattone in redazione. Mi ha raggiunto in questo momento uno dei miei migliori amici qui alla radio. Si chiama Giuseppe Cruciani. Eccomi qui. E tra poco sentiremo che cosa ha da dire su questa partita e su questo SMS. Ladri d'Italia, vergogna Juve. Gianni. No, l'unica cosa che è un po' un peccato è che qui le grandi aree fanno 17 metri, è solo questo. Tutti convocati. It's astounding. Time is fleeting. Madness takes its toll. But listen closely. Not for very much longer. I've got to keep control. Pallone ancora per Carlitos Tevez, che è pronto al traversone. Eccolo che arriva insidioso. Yang Gambiwa. Poi al volo! Golasso al 41. L'obiettivo rimane, è male che la Roma non molla, però stare qua e dire ai tifosi che il nostro obiettivo è lo scudetto, c'è stato come se prenderli in giro, purtroppo dispiace quello che è successo, e penso che abbia visto un po' tutto il mondo. Quando ci sono queste cose in campo è difficile venire qua a vincere. Un sapore di ingiustizia? Ma io spero che sia buona fede, però ogni volta stiamo qua sempre a parlare di episodi sfavorevoli, sempre contro le stesse squadre. No, l'unica cosa che è un po' un peccato è che qui le grandi aree fanno 17 metri, è solo questo? No, un po' troppo di nervosismo, sicuramente, ma c'è anche normalmente un direttore di gara che deve gestire questa cosa. La brutta cosa per noi è il tackle, se si dice così in inglese, di Morata, molto pericoloso, ma Manolas non deve fare la polizia da se stesso. I due calci di rigore non c'erano, e è altrettanto scientifico che il terzo gol, pur essendo stata una prodezza balistica incredibile di Bonucci, è da annullare perché il portiere non vede la palla. Tra il dubbio e il rigore è sempre il rigore. Io lascio a voi, perché se parlo io mi squalificano, perciò... Allora, Giuseppe Cruciani. Eccoci qui. Apritemi l'audio, però altrimenti non si sente niente. Bene. C'è anche allora, Pardo, eh? Sì, ciao Pierre. Allora, ciao. Allora, quello che ha detto Sabatini è sbagliato, perché non c'è nessuna cosa scientifica. Come oggi dimostrano i moviolisti, chi ha analizzato la partita sui giornali, non solo, ci sono interpretazioni possibili per ogni cosa che è successa, tranne una forse. Tranne la prima. Fallo di Maicon non c'è. Tranne il fallo di Maicon che non c'è. Non esiste. Sul resto si può discutere di tutto, dunque non c'è nulla di scientifico. La questione del fuorigioco di Vidal, per me il gol è da annullare, però è vero che c'è un'interpretazione controversa FIFA nuova che dice se la palla il portiere la vede partire. Un piccolo particolare, Giuseppe. Sì. Quell'interpretazione che è corretta, ricordiamo, a norma di regolamento e di nuova interpretazione, il gol è assolutamente regolare, l'ha sostenuto anche Graziano Cesari, mi fido. Che però poi quella roba lì il guardaline non la vede, cioè al limite deve essere l'arbitro di porta. No, ma certo, ma io... guardaline con la visuale che ha, completamente schiacciata, ovviamente, sulla linea dei 16 metri, sulla posizione di fuorigioco, no. Sì. Non è che vede esattamente se è davanti o se copre la visuale. Ma è impossibile, dunque, da annullare. Ma nemmeno l'arbitro di porta potrebbe arrivarci. Questa è la realtà. Solo con la moviola ci si può arrivare. Si può arrivare a capire che in realtà vede partire la palla o forse non la vede. Questo è il punto. Cioè, la FIFA inventa delle regole che possono essere applicate solo ed esclusivamente con la moviola. È vero. Questo è il punto. Torniamo agli aiuti tecnologici in campo che sono stati richiamati. Per me al 100%, ma è inutile che ne parliamo perché è una questione vecchia di anni. Totti, io credo che sia francamente da deferimento. Credo che sia da deferimento e da squalifica. Cioè, il ruolo di Totti non gli impone solamente di soleticare come ogni tanto succede, come è giusto che sia la piazza. Gli impone anche il ruolo che ha a Roma nel calcio italiano. C'è stata questa grande festa per i 38 anni, francamente, di essere molto ma molto più prudente. Cioè, non si può dire alla grande massa dei tifosi della Roma, dopo un inizio di campionato così, che è tutto inutile, che tanto la Juventus arriverà prima, che parlerò dopo quando avrò smesso e chissà cosa avrà da raccontare, perché già il calcio italiano è pieno di sospetti. Ma mettere dentro quest'altra dose di veleno da parte di una persona così autorevole nei tifosi come Totti, sinceramente io lo vedo da deferimento. Poi non ci sarà il deferimento perché non ci sarà, perché per motivi diplomatici non ci sarà. Però, ma quindi deve incassare e stare zitto? Ma non è che te? Deve incassare, no, cosa? Che cosa bisogna incassare? Garcia intanto Garcia oggi ha twittato a mente fredda: vabbè, questa partita fa male al calcio. Vabbè, ma è una cosa generica che può essere detta di tutto e di tutti. Può essere rivolta anche a Totti. Può essere rivolta, no, non è la stessa cosa. Come no? Può essere una cosa rivolta anche ai suoi giocatori, e infatti lui se l'è presa con Manolas, giustamente. Io credo che l'atteggiamento di Garcia dopo la partita, a parte la battuta sui 17 metri, che sicuramente se la poteva risparmiare, ma comunque l'ha detta col sorriso sulle labbra, sia stato l'atteggiamento più corretto e più giusto. Cioè, quello di dire, di fare una battuta anche qui per solleticare la piazza, perché comunque è l'allenatore della Roma. Però ha detto: la Roma, devo rimproverare i miei giocatori se non abbiamo vinto questa partita. Sì. Ed è così. Io l'unica cosa a cui sono contrario è un eccesso di vittimismo, perché il vittimismo porta ad alibi e porta a queste cose. Poi, se Totti si vuole tutelare la sua squadra, secondo me fa bene anche a farlo. Posto che si debba tutelare la propria squadra in questo modo, cioè, la si può tutelare in tanti modi. Secondo me questo qua è il modo peggiore per tutelarla. Ripeto, a mio parere va deferito, ma lo direi di chiunque fosse un giocatore della Lazio, della Roma, del batte la pesca. Pardo. Sono d'accordo sul fatto che qualsiasi vittimismo in questo momento faccia del male a tutte le rivali della Juve, nel senso che far passare l'idea che tanto a Torino non riesci comunque a vincere in un modo o nell'altro non è particolarmente furbo, né nei confronti della Roma né nei confronti delle squadre che giocheranno contro la Juventus, la Juventus Stadium, dove nessuno riesce a fare risultato ormai da più di 20 partite. Quindi questo è il primo elemento. Pensare di essere rassegnati è sbagliato ed è poco furbo. Sugli episodi sono d'accordo, cioè c'è un episodio secondo me clamorosamente, un episodio incredibile secondo me, che è il primo rigore. Primo rigore è un episodio incredibile. Gli altri episodi sono tutti aperti a dibattiti, interpretazioni, questioni di centimetri, di millimetri. Esatto. Questo sì, però no, ma quello che si domandano tutti è perché è sempre in dubbio pro Juve. Ma no, ma non è vero, non è anche vero? Questa cosa qui non è vera, è una leggenda metropolitana, ma era infatti. Se vuoi, l'episodio del calcio di rigore di Totti, c'è chi come Graziano Cesari sostiene che ci sia un inizio di trattenuta da parte di Totti. Esatto. E io sono abbastanza convinto, ve la dico a frego, tanto ci dentro soltanto in questo momento 700.000 persone, che quel rigore lì nasce anche in qualche modo perché c'è stato l'altro. È una sensazione che ho io. Sì, compensazione. Sì, a palla lontana. Assolutamente. Poi, onestamente, quel rigore lì ci può stare, secondo me. Il rigore per Totti ci può stare, mentre quello per il fallo di mano di Maicon non c'era. Tra l'altro è stato fatto l'esempio del rigore dato alla Roma nel 2010. Stasera a Tiki Taka lo faremo rivedere. A me sembrano situazioni molto diverse, perché il giocatore della Juve saltava col braccio largo e quindi c'era, come si dice in gergo, un aumento, no, del volume. Sì. Mentre ieri Maicon ha saltato praticamente dritto, perpendicolare. Se non avesse preso il pallone col braccio, l'avrebbe preso con la testa. No, ma la cosa incredibile è un'altra di quell'episodio lì, è l'indecisione dell'arbitro, perché tu puoi anche sbagliare dando il rigore, ma lo devi dare subito il rigore. Cioè, se sei convinto che quello sia rigore e non è rigore, lo devi dare subito. Invece l'arbitro sbaglia da prima al calcio di punizione, poi non si capisce cosa succede, perché pare che non consulti nemmeno il guardalinea, perché il tempo è troppo. È arrivato l'assistente di porta. Però l'assistente di porta, ancora come prima, aveva una pessima prospettiva. Perché, ma sì, l'assistente di porta non può certamente giudicare quella palla lì. Insomma, lì è l'indecisione dell'arbitro. Penso questo: la somma degli episodi di ieri fa arrabbiare la Roma. E secondo me è legittimo. Dei singoli casi, Rocchi ha sbagliato tantissimo. E l'unico episodio indiscutibile è il primo rigore per la Juve. Perché poi su tutto il resto, rigore di Totti compreso, secondo me si può discutere. Dopodiché, insomma, in una partita così importante e così calda, capisco che a Roma faccia arrabbiare. Allora, io ero in tribuna. Lì bisognerebbe riuscire ad avere la lucidità e la forza di non reagire, o comunque di reagire in termini positivi. Non ce l'ha avuta. Ha parlato da tifoso, ha detto quello che pensa. Diciamo la verità, adesso ragazzi, su Totti in tribuna, io ho una grande ammirazione per quale Totti. Quale sensazione hai avuto? Adesso te la racconto. Ho una grande ammirazione per Totti. Però ancora una volta ho l'impressione che in realtà mi era un po' andata via negli ultimi anni, che la sua testa non riesca a uscire fuori dal raccordo anulare. Non è una battuta da antiromanista questa qua, che cosa che non sono, ma è una cosa concreta, reale. Cioè, in alcune occasioni perde la testa e dà l'idea di una persona. Però guarda, io ti dico anche una cosa. Io ripeto, secondo me il deferimento, diciamo che è sacrosanto. Non ci sarà per motivi di opportunità. E in qualche modo magari sarà una conferma del fatto che non è piaciuta la direzione arbitrale di ieri, nel senso che sembrerà un ulteriore accanimento sulla squadra che ieri sicuramente non è stata favorita dall'arbitro. Io penso che la grandezza di Totti, la forza di Totti sia anche nella sua spontaneità, per cui un Totti normalizzato che non dice quello che pensa alla fine di una partita del genere, io da appassionato di calcio non lo voglio. Poi è vero, tecnicamente è da deferimento, perché quello che dice è chiaro che se tu fai parte di questo mondo e c'hai la tessera, giochi, prendi lo stipendio e giochi in questo campionato, quello che lui dice ieri essenzialmente. Beh, ma sai, ma può essere anche un rischio calcolato, quello di un deferimento. Siamo a novembre, siamo a ottobre, c'è questo confronto diretto. Totti diplomatico che esce da questa partita, non è che abbiamo bisogno di un Totti che dice che il campionato è tutto truccato. Di questo non abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di un Totti diverso, non che dica che il campionato è tutto truccato, perché questo ha detto. Abbiamo bisogno di un Totti incazzato magari per le cose che sono successe, ma non che dica che è inutile giocare questo campionato, la Juve gioca un campionato da solo, perché non è così. Cioè, allora, leggi questo titolo. Vabbè, ma il Corriere dello Sport fa il mestiere suo, le copie a Roma, dai, di che parliamo, dai, su. Cioè, non è quello il punto, il Corriere dello Sport o tutto sport. Il punto, io ieri in tribuna, dove peraltro sono caduto, mi sono pure fatto male per i maledetti sedili della Juventus che tornano su. Era rigore, Cruciani. Sì, era rigorissimo per me, però voglio denunciare la Juventus per quello che è successo. Mi sono fatto male alla schiena. C'erano 4-5 tifosi della Roma che hanno visto la partita insieme a me, persone civilissime, eccetera, che erano molto più incazzati per il gol mangiato da Pjanic, che oggettivamente poteva cambiare la partita in un momento molto favorevole alla Roma, rispetto a quello che è successo dopo. Ma questo è indiscutibile, e io di questo poi vorrei parlare, perché io penso che la Roma ieri abbia dimostrato, da un lato, di essere una squadra fortissima, secondo me fortissima, arrivata al livello della Juve, dall'altra però io credo che il gol del 3-2 per esempio sia arrivato in un momento dove era evidente l'arretramento della Roma. Dal 20° del secondo tempo, se voi guardate, la Roma non riesce più a salire e la Juve ha occasioni e colpisce la traversa con Morata. Questo è un altro aspetto della questione. Poi mi viene da pensare che forse i 5 tifosi della Roma che erano vicino a te ancora non avevano visto i replay, non so se avessero il monitor previsto. No, sì, a volte erano ipercollegati, mi facevano vedere in diretta dal telefonino i centimetri, le cose. Gli episodi condizionano partite così, Cioè, è inutile far finta di no. No, ma certo che gli episodi condizionano tutte le partite, sempre. Cioè, il calcio è fatto spesso di episodi. Dopodiché, un campionato non è che si vince o si perde per questa partita, si vince o si perde per altre cose. Cioè, non si perde per queste cose qui. È anche vero, Giuseppe, in un campionato con due squadre praticamente perfette. L'anno scorso la Juve ha vinto a 102 punti. Che vuol dire che i punti che perdono le grandissime in questo campionato sono pochissimi. Ma non è vero, ma siamo ancora alla sesta giornata, non si può dire. Vedrete che la Juventus e la Roma perderanno dei punti per strada. Ma non ci mancherebbe altro. Ma li perderanno, non sarà un campionato. Perderanno, però in un campionato come questo, cioè non sono i campionati degli anni 80 dove tu facevi 15 vittorie in casa e 15 pareggi fuori e diventavi. Scusate, allora la Roma ha vinto a Parma al 90°. La Juventus era in vantaggio per 1-0 a Bergamo, e se l'Atalanta segnava il rigore, non so. so come andava a finire, per cui adesso non è accaduto fino adesso, perché erano a punteggio pieno fino all'altra sera, la Juventus è ancora a punteggio pieno, ma vedrete che nelle prossime giornate qualche punto per strada si perderà, è normale, non sarà questo scontro diretto decisivo al 100%, anche perché alla sesta giornata, fosse la terza ultima, alla quarta ultima, fosse come l'anno scorso, sarebbe diverso, perché poi l'ultima giornata probabilmente potrebbe essere decisivo, però insomma i punti li perderanno, calma e gesso, il campionato non è come dice Totti, non è chiuso, non è morto, non è finito. Non è morto, però le cose vanno dette. E Agnelli dovrebbe dire alla moglie, di non battere la mano sulla tastiera, pure lei, la moglie di Agnelli, che ci si mette a fare, dai, su. Borsa. Finché ci sarà la Juve arriveremo sempre secondi, questo l'ho detto e lo dirò sempre, perché la Juve è un'altra squadra, per me dovrebbe fare un campionato a parte. Noi siamo una squadra competitiva, una squadra che si è rinforzata tantissimo, possiamo dire la nostra, però poi quando la incontri succede quello che succede purtroppo. Tutti convocati. Vediamo se questa sera siete d'accordo. Secondo me neanche stasera. Io mi siedo però Allegri, guardi. Guarda, non ti fa tanto onore, visto la mia storia e la tua storia. Vabbè Rigo, però se sei permaloso. Chiaritevi. Ho capito, ma no, chiaritevi. Io ho fatto una battuta, voglio dire, se no guarda, ascolto, così magari. No, ma io non ti voglio di più. No, ma io guarda che non, io non ti fortuna. Voglio far domande. No, scusa. La domanda di Enrico, partiamo da. No, non sono disposto a parlare. Quindi non faccio Arrigo. Nessuna domanda. Arrigo, la domanda. Quando avrai imparato il rispetto che si devono alle persone, allora parlerò. No, però, scusate, siamo per favore, in diretta. Per favore, io sono qui a fare delle analisi tecniche. Non ho mai attaccato la persona e non sono mai stato mai stato sgarbato con nessuno. È uguale. Lasciamo stare. Io credo di meritare il rispetto per tante cose. Quindi era una battuta, ma questo, cioè, questo non vuol dire. Le battute, Arrigo, se non accetti le battute, allora io non parlo più, perché voglio dire, io credo ogni tanto che dopo la partita, voi prendete le cose un po' troppo seriamente, dopo la partita bisogna anche un attimino sdrammatizzare e fare una battuta. Si vede, scusatemi se non avete capito la mia battuta, da ora in avanti faccio il soldatino preciso e serio, perché mi rapporto con chi ho davanti. Allora Allegri, ma cerchiamo di chiarirci, Arrigo, basta, io non voglio parlare, io rispetto tutti, dico solamente che no, perché l'altra sera non sei stato rispettoso per nulla, e anche stasera, perché hai detto con certe persone faccio il contrario, io non sono stupido. E sei partito arrogante e presuntuoso. Ma ti arrabbi te, Enrico, ma cioè non è che io possa essere d'accordo con te. Se te vedi una partita, ti faccio l'allenatore, te stai lì a commentare. Voglio dire, credo che Enrigo. Cioè, io nella mia vita non l'ho mai detto così a nessuno, e ti posso dire che ho avuto dei sì, ma 25 anni fa non c'erano anche le televisioni. Lasciamo stare. Dai, aggiornati, dai. No, va bene, no. Vabbè, dai. Sacchi Allegri, Giuseppe Cruciani, Pierluigi Pardo volano gli stracci. Allora, sì, devo dire che con tutta la simpatia che posso avere per Arrigo Sacchi, che per un periodo ho frequentato professionalmente quando era Mediaset nelle trasmissioni sportive, ma ha ragione, ma Allegri, insomma, nel senso, sentendo quello che è successo, poi non so dietro quello che c'è. Perché impermalosirsi? Lo dico io che modo. C'è dietro. Dillo. Ecco, dillo tu, dai. No, dietro c'è stata una prima discussione Milan PSV. Ma io credo che Allegri di fondo pensi nel fondo del suo cuore che, essendo Sacchi, insomma, uno che ha vinto tanto e che è ancora molto ascoltato in casa Berlusconi, in quel momento di difficoltà che lui stava avendo non l'ha aiutato. diciamo Sacchi non l'avesse aiutato, ecco. Sì, però per restare alla discussione che c'è stata pubblica, diciamo, e non ai precedenti tra i due e ai retroscena tra i due, sinceramente mi sembra che più permaloso sia stato Sacchi. Ieri sicuramente Allegri aveva fatto una battuta. Esatto. No, ma però c'è il pregresso del lo sai la realtà qual è? La realtà è che Rico si sente oggettivamente un allenatore che va ascoltato quasi come una divinità. Certo. Ma lo dico non in senso negativo, perché si sente. Ma Rico, scusate, è una divinità dal punto di vista di icona, sì. C'è poco da discutere. Poi è ovvio che, per esempio, nella discussione specifica, diciamo che Rico diceva le cose che ha detto Genta dopo Madrid. Ero più dalla parte di Allegri, cioè secondo me la partita di Madrid è una partita sfortunata dove si è persa una grande occasione, amen, però la Juve non aveva giocato così male. No, però rimango dell'idea che fosse una partita da portare a casa, quindi in quell'occasione la discussione lì ieri era proprio una discussione così, diciamo, di ego e di. Sì, ma ti ricordi che c'è anche il pregresso della. Ti ricordi c'è anche il pregresso della a 60 anni andrò col gommone, non andrò a fare più televisivo. Allora, Paolo Liguori, direttore, buongiorno. Signor Liguori. Ciao Paolo, ciao. Scusate, posso fare un momento di promo? Stasera Tikita che abbiamo, scusate. Sì, vai. Pavel Nedved. Tutto ti è concesso. Ok. Pavel Nedved e Mughini. Sì. E poi voglio dire all'altra parte, Liguori e il direttore Giordano, ecco. Direttore Giordano, torinista e anti-juventino per definizione. Ecco. Come però dire. Ecco, fatemi passare una serata nei limiti del possibile serena, va bene? Lo sai che è molto impossibile. Sposare, ecco, è impossibile. Anche perché risulta che Paolo Liguori si è incazzato duro. C'è anche Madri, eh? C'è anche Madri. No. Ah, no. Vai. No. No? No, non sono incazzato duro, no. Ieri sera mancava solo che scendesse il grande mega striscione siete su scherzi a parte e il resto era tutto già confezionato. Sai cos'è? In che senso tutto confezionato? In che senso tutto confezionato? Sono un po' stanco di tutte queste. Questo è un paese che tutti ci prendiamo molto sul serio e allora alla fine quando tutti si prendono molto sul serio ci sono quelli seri che prendono in giro tutti. E così succede, per esempio da ieri sera che senti, sai, ste frasi che non ne posso più. Cioè, ma non si può discutere dei singoli episodi. Allora, quando due squadre sono sostanzialmente pari, sì, la partita si decide solo su singoli episodi. Questo quasi sempre. Non anche su singoli episodi, solo su, sì, singoli episodi. E allora? Si affrontano squadre di pari forza. E allora? Allora, non ne voglio discutere dei singoli episodi. Voglio fare una mia proposta, che è una proposta serena, calma, tranquilla. E qual è? Rinunciamo ad andare in trasferta a Torino con la Roma, non ecco, ci andiamo. Ecco la stronzata, ecco la stronzata, dai. Ecco la stronzata del pomeriggio. 14:42. Col quale ma dai, gli infortunati, ti riprendi il sistema nervoso, non aggiungi e non levi niente a quello che già vedi, vai tranquillissimo alle partite successive. Ma di che stiamo giochi parlando? Il campionato su tutte le partite meno una, quella la dai per perdere. Vabbè. E secondo me è molto meglio, lo sai perché? E questa è una proposta pacata, riflessiva. Non perché bisogna essere per forza pacati e riflessivi, questa sarebbe la proposta, diciamo. Sì, è molto pacata. Perché, ma che molto pacata. Diego, se tu hai costruito con dei soldi, con dei sacrifici, con, sì, del lavoro, ieri, sì, sera sentendo Totti pensavo, ma secondo te, direttore, Totti ha fatto bene a fare quell'uscita oppure no? Totti ha detto quello che pensa, cioè lui passa la giornata, sì, a 38 anni ad allenarsi, a fare la e allora? Perché altrimenti non potrebbe giocare così. E che c'entra? E lo fa solo per una cosa, perché? Per avere in campo la possibilità di giocare alla pari. E tu ce l'hai avuta la possibilità tutta la partita, perché se Pjanic segnava quel gol la Roma avrebbe vinto la partita, tu lo sai benissimo. Dunque, questo, scusami Giuseppe, il fatto di dire che se Pjanic segnava, secondo me è più Gervinho sul 2-1, uguale. No, scusami, però questo non toglie. Posso sentire queste stupidaggini, cioè qui è stata una partita che è degenerata con un rigore che nemmeno aveva dato il povero, sì, Rocchi. Assolutamente. Il povero Rocchi aveva visto subito. Su questo siamo d'accordo. Poi non le area o fuori area, ma perché proprio non c'era nel, sì, senso che il giocatore si protegge. Allora, non lo dà e c'è una pressione fortissima per cui deve cambiare idea e lo dà. Poi andiamo avanti. Al 46:30, cioè scaduto, no, però stai saltando il rigore su Totti, che probabilmente non c'era nemmeno quello. Totti, se lo fai vedere in Cina, il cinese dice ligole. No, ma che bordino, se lo fai vedere in Cina, ma che stiamo a parlare? Ma vai, su, ma siamo alla faziosità più totale, dai, su. Possiamo pure non andare, arriviamo sull'1-0, sul gol di Turpe. A quel punto, al 46:30, a tempo scaduto e recupero scaduto, viene il rigore del dubbio, quello che Totti ha detto dubbio, ma nel dubbio è sempre rigore quando stiamo a Torino. Il mantra romanista. E si va sull'1-1 o 2-2 se preferite metterci gli altri due. Sì, il mantra romanista. Sul, a 3 minuti dalla fine viene concesso un gol che chiunque annulla. Non è vero che chiunque annulla, perché no, assolutamente. Non è così. No. Un arbitro lo annulla, Rocchi no. Rocchino. Rocchino, allora in tutto Rocchino, questo però devi andare fino in fondo a questo ragionamento. È il ragionamento del mantra, è il mantra romanista che è, in, dai, come è in corso dalle 20 di ieri sera. È il grande mantra, romanista di ieri sera. Io non so cos'è. No, lo sai, il racconto, diciamo, il racconto romanista, il vittimismo. No, il vittimismo che è in corso ormai da tanti anni e che è riesploso. Sei Pardo, tu sei Cruciani? No? Sono Cruciani, certo. Meglio Milan. Comunque, detto meglio Milan. Che vuol dire? Detto che è meglio Milan. Ma che vuol dire? Lo sanno, conoscono più Milan che Mantra. Ma che vuol dire? Non c'entra niente, quello è del Milan. Puoi sapere la mia. Ma non so, ma di che stai parlando? Di calcio o di altre cose? Però Giuseppe, io sono abbastanza d'accordo con Liguori. Ti dico la verità, sono abbastanza d'accordo con Liguori. Ma vai lì, ma scusami, vai lì. E te la giochi su quegli episodi. No, ma il ragionamento di Liguori portato fino in fondo significa che il signor Rocchi... Non bisogna andare a Torino. Ma che non bisogna andare a Torino, ma falla finita con queste buffonate, su. Buffonate ridicole, dai. Non sono buffonate, se Sabatini ci pensa lo fa, perché quello ha speso alcuni soldi per costruire una squadra dopo molta fatica, 2 anni, vuole portare una squadra all'altezza dell'altra. Vabbè, l'arbitro il potere gli impedisce di fare. Il potere, il sistema, il potere più grosso. Il Bilderberg forse, il che ne so, la Banca Centrale Europea che impedisce alla Roma di vincere lo scudetto. Ma dai, su. Ma di che stiamo parlando? Però scusami, fammi sentire Pardo. No, io dico che il problema oggettivamente c'è, il problema è percepito, non è percepito solo dai problema? Romanisti. Quale? Beh, se tu fai un giro sui social in queste ore. Ma che vuol dire i social? Non vuol dire niente. Se tu fai un giro sui social in queste ore, vedi, cosa? Giusto o sbagliato che sia, è che c'è questo tipo di vento, che c'è questo tipo di percezione. Ma perché, quale percezione? Per cui se Liguori non vuole andare più allo stadio a Torino. Quale percezione? La Juventus è stata mandata in Serie B da quello che voi chiamate potere fino a qualche anno fa. Ma di che parliamo? Ho commentato delle partite della Juventus. Ma nemmeno poche, in cui la Juventus è stata anche sfavorita, perché fa parte della vita. Nella vita ci sono episodi a favore, esatto, ci sono episodi contro. Tutto qui. Detto questo, se Liguori, dopo una serata come quella di ieri, nella quale oggettivamente è incazzato, benissimo, ma ci sta, somma ci sta. Di episodi, ci non sta. Vuole andare allo stadio, ma poracci, ma perché ce lo devi no mangiare? Lui è diverso, dice, non dice questo, fa la proposta di annullare le trasferte a Torino. Mi sono assolutamente seccato di dire quanto siete bravi, quanto siete forti, quanto siete sorridenti, quanto siete generosi. Ma chi ha detto che deve dire questo? E vi capiamo anche se siete un po' incazzati dopo quella partita. Però continuiamo così, non va bene. Insomma, dai, siamo al gol de Turone. Siamo ancora al gol de Turone, dai. Stesso autobus, si leva sempre lo stesso portafoglio e poi siamo al gol de Turone, dai. Siamo rimasti al gol de Turone, dai. No, però ci siamo ritornati in qualche maniera. Guarda, fate una grande confusione. Il gol de Turone è un episodio che succede ad una squadra costruita da Lidl che faceva bel gioco, poi può succedere dell'episodio eccetera. Qui c'è una squadra che da 2 anni è stata costruita scientificamente e ha preso allora? Milioni per arrivare benissimo, a diventare formidabile, come l'altra. Tutto stupendo, formidabile. Allora, poi se però questo lavoro viene vanificato, ma vanificato che siamo, che siete a 3 punti, la Roma è a 3 punti, è a 3 punti la Roma, vanificato dove, quando? La Roma è a tre punti perché c'hai il microfono in mano e mi levi la voce. Ragazzi, un attimo. Paolo, stai lì perché voglio chiudere questo discorso. Abbiamo il traffico, ce la fermiamo un secondo e poi ognuno ha diritto di replica. No, ma sì, per carità. Qui lo studio è già abbastanza indisciplinato e questo mi mette di particolare buon umore. Tutti convocati. Allora, io credo che Paolo Liguori abbia diritto di replica su Cruciani. E poi... Se n'è andato, che ha fatto? Se n'è andato? Sì. Se n'è andato. Sei incazzato con te? No, no, ma per, non credo. No, no, non credo nemmeno io, ma adesso proviamo a, anche a richiamarlo. Però, prima ha detto... però scusami, comunque, Giuseppe. Scusate un attimo, una partita così equilibrata, gli episodi sono decisivi. Ma l'abbiamo detto sono decisivi. Ma chi ha detto sono il contrario? Decisivi. Chi ha detto il contrario? Quindi, cosa, cioè, se un romanista è arrabbiato, ha ragione. Ragazzi, però, ha diritto di essere arrabbiato. Ma non parlate dell'acqua calda, che vuol dire? State dicendo delle banalità colossali. È evidente che uno ha diritto di essere arrabbiato. Stiamo discutendo. Poi, secondo me... Ci sono ruoli e ruoli. Liguori si può permettere di dire certe cose. Totti no, ragazzi. Totti ha fatto un'uscita, potrebbe essere punito. Diciamo che a termini di regolamento è abbastanza normale che possa essere deferito per quello che ha detto. Della partita ne possiamo discutere. Secondo me, nel secondo tempo, la Roma si stava abbassando e da quando è entrato Vidal, secondo me, ha dato molta energia in più alla Juve rispetto a prima. Il gol del 3-2 non arriva casualmente, arriva in una fase in cui la Juve ha colpito la traversa con Morata. Sì. La Roma ha perso il suo momento sul 2-1, esatto, nella parte finale del primo tempo, e dal punto di vista della partita recrimina per quel cronometro e per quel calcio di rigore dato all'ultimo istante del primo tempo. Per me la sintesi della partita è tutta lì, però ripeto, non, perché bisogna proibire a Liguori di... Ma assolutamente, figuriamoci, se non ci fossero queste cose... Ecco, cioè questo fa parte del meccanismo del gioco, e francamente... Insomma, non capisco perché ci si debba indignare. Ma no, io non mi indigno, certo. La proposta di dire, cioè provocatoria, di dire cancelliamo la trasferta a Torino, mettiamo 0-3. Ma un tifoso, ma adesso, dai, nei panni, un tifoso che, della Roma, che ieri è andato lì, ha speso. E allora? Potrà avere può anche se si è preso per parte il culo, che non è un diritto, a parte situazione... che non è che sia. Non è che un diritto andare in trasferta a spendere i soldi, dunque certo che non è, ma certo, ma infatti ognuno farà quello che gli pare. Non è che adesso la proposta di Liguori diventerà un decreto di legge su cui il Parlamento dovrà pronunciarsi. Cioè, la Juventus ha vinto di un tifoso, e mi sembra normale, come sì, sembrerebbe normale a parti invertite lo stesso ragionamento, insomma. Guarda, la Juventus qui si cerca di far passare l'idea folle, ridicola e assolutamente falsa che le 21 partite, non so quante sono, 20-21 partite vinte dalla Juventus consecutive tra l'inizio di quest'anno e tutte le partite dell'anno scorso in casa siano il frutto di una sorta di ruberia. Ma nessuno ha detto di una questo, sorta di Giuseppe, ruberia. Ma nessuno ha detto questo. Liguori quando dice così, ma no, tu non l'hai detto, l'ha detto Liguori. Giuseppe, è inutile andare in trasferta a Torino. L'anno scorso, ragazzi, la Roma è andata a Torino e ne ha presi 4. Legittimamente. I graziati dicono che la Juve è la squadra più forte d'Italia fino a prova contraria, e questa stagione nasce con il tentativo della Roma di avvicinarsi molto al livello della Juve. Questo è il punto di partenza, e credo che siamo tutti d'accordo su questo, no? Gli equilibri sono molto, molto chiari e molto precisi. È chiaro che alla prima vera occasione nella quale c'è uno scontro diretto, una partita così equilibrata, succedono delle cose che fanno arrabbiare i romanisti. Cioè, a me sembra tutto molto normale, molto sì, ma assolutamente nella normalità di una, ripeto, di un'incazzatura che ci può essere, di un'arrabbiatura generale di un ambiente, di persone che chiaramente hanno investito, come dice Liguori, e si aspettano parità di trattamento, invece pensano di essere state danneggiate, ci può essere qualche reazione anche scomposta, come quella di Sabatini, che però rientrano, diciamo, anche qui siamo nella normalità. Sabatini, quello che c'è di scomposto, Sabatini vista premium, tutto è stato meno che scomposto. Sabatini vista premium dice che secondo lui non c'è nessuno, ma infatti non c'è Juve. Però parla col sorriso sulle labbra, fa i complimenti a Bonucci per un gol, ma certo, bellissimo, e scherza con Marotta. Io devo dire, ma infatti partita di ieri, io scusate, ho visto soltanto quello di premium, ma è stato di una forza, ma anche di un fair play, secondo me, assolutamente eccezionale, anzi da sottolineare. Certo, la battuta di Totti è la battuta di uno che in quel momento lì sta rosicando, non ci sono discussioni. C'è di più, non c'è solo il rosicamento, c'è un'analisi che si è tenuto dentro evidentemente in tanti anni, poi a mente fredda sicuramente già, magari parlando col suo amico Buffon, forse ci ripenserà. C'è una roba detta da tifoso della curva, questa è la realtà. Intanto c'è anche Garcia che ha sviolinato ieri, che oggi a mente fredda ha detto questa partita fa male al calcio italiano. Vabbè, ma questo si può dire di qualsiasi cosa. Va bene, grazie Giuseppe. Ciao ragazzi. Ciao Pier. Ciao, ci sentiamo dopo. Allora, Bet Corner, GR, poi parliamo con gli ascoltatori 800240024. Quote e pronostici. Scende in campo questa sera la Serie B con il posticipo della settima giornata. In campo Ternana e Avellino, con calcio d'inizio alle 20:30 allo stadio Liberati di Terni. E sono queste le quote SNAI per questa partita. l'1 una vittoria della Ternana è quotata a 2,40, l'X è a 2,90, il 2 invece con il successo degli Irpini è quotato a 3,30, interessanti anche le quote del gol quotato 1,87 e del no gol quotato 1,83. In campo questa sera pure la Lega Pro con il girone B Pavia Albino Efes gioca alle ore 20,30, l'1 una vittoria del Pavia è quotata 1,90, l'X è a 3,15, il 2 invece con il successo dei Bergamaschi è quotato 4. Si stanno giocando intanto anche i mondiali di pallavolo femminile in questi giorni ed è possibile indovinare già da adesso chi vincerà secondo voi laureandosi campione del mondo. Brasile favorito con una vittoria delle Verde Oro quotata 1,75, Italia quotata 6, Stati Uniti quotati 6,50, Russia 7, Cina 12. Questa era l'ultima delle quote snai di oggi, a risentirci domani. Convocati. Da chi che viene trasportato è stato trasportato, quindi la conferma è che Jules Bianchi, che ha evidentemente avuto un impatto violento uscendo dopo Adrian Sutil, abbiamo visto la dinamica, Jules Bianchi trasportato dall'ambulanza al centro medico, ovviamente adesso aspettiamo aggiornamenti per capire quelle che sono le condizioni del pilota francese della Marussia. Noi stiamo qui a, insomma, a perderci nei meandri di Roma-Juventus, ma intanto ieri c'è stato qualcosa di ben più grave, qualcosa che conosciamo, la cronaca dice che le ultime notizie dicono che Jules Bianchi non respira autonomamente da ieri, i familiari sono arrivati all'ospedale e si aspetta un bollettino medico. Giorgio Terruzzi oggi nel suo commento su Corriere della Sera ha titolato una direzione di gara senza buon senso. Giorgio, buongiorno. Buongiorno. Raccontami il contenuto di questo tuo commento. No, ma non si può correre con una ruspa in pista su una traiettoria di uscita di pista. Cioè, punto. Cioè, non c'è molto margine. Se tu sei in una direzione corsa e sai che c'hai un punto in cui devi per forza usare le ruspe per togliere una macchina che comunque rappresenta un problema, devi fermare la corsa, non ci sono, cioè è finita lì, no, e poi è già successo qualche volta, beh, va bene, e quindi pioveva, erano tutti stanchi, lì ognuno si può andare sulle responsabilità, c'è un direttore di corsa che fa il mestiere lì, che sa, ha esperienza e si prende le sue responsabilità, è un incidente assurdo che poteva essere evitato. Qui non stiamo parlando di rischi di chi corre, qui stiamo parlando di un'altra eventualità, cioè di un pilota che è di pista e sbatte contro una ruspa. Mm. C'è qualcosa che non va, no? Sì. È anche vero che non voglio fare avvocato del diavolo in una situazione come questa che è incommentabile, cioè sulla quale non c'è nulla da dire. È tanto tempo che non vedevamo incidenti gravi in Formula 1. Sì, molto tempo. Così poi, cioè, è stata sfidata la sorte secondo te? Sì, è stata una giornata storta con un po' di situazioni discutibili, infatti si è discusso, si è criticato, poi ognuno ragiona per il proprio interesse, mi pare di capire lì dentro, però questo non è, ripeto, non è un incidente dovuto a, non so, una sospensione che si rompe, un pilota che esagera, una rottura, cioè non siamo fuori dalla rosa pur ampia di rischi di uno che corre, siamo dentro una situazione gravemente anomala e probabilmente evitabile, insomma. Pensi ci saranno delle conseguenze? Non ho capito, scusa. Pensi ci saranno delle conseguenze sull'organizzazione? Non lo so, qui Charlie Whiting è un intoccabile da sempre, è un protetto di Eccleston, accolto da Todd, parliamo di una federazione internazionale che ha una campagna mondiale di sicurezza sulle strade, potrebbe sapere come giustifica l'insicurezza di una pista, insomma, però io, questa gente qua, Charlie Whiting non è nuovo, una persona molto arrogante, che guadagna molti soldi, che fa il brutto da molti anni, mi pare che se doveva succedere qualcosa sarebbe dovuto succedere a suo tempo, non so se succederà qualcosa, certamente un segno di un po' di vecchiaia, no? Un po' più ampio il discorso, però insomma non lo so, le conseguenze purtroppo sono per Jules Bianchi, sì. Questo è lui che le paga intanto. Sì, e le sensazioni non sono un granché, anche se in casi come questo io di Schumacher non ho mai parlato, cioè se non per le notizie di cronaca mi attengo anche in questo caso strettamente e in maniera molto fredda alle notizie di cronaca, la situazione è molto grave per questo pilota. È molto grave, credo che il trauma sia stato molto violento, anche se non si è visto niente, anche questa cosa, no? Il fatto che non abbia mandato immagini che sicuramente hanno segnalato un aspetto di colpa, secondo me. Comunque, intanto è stato molto violento, tra l'altro la testa di un pilota molto bassa e quindi con un mezzo così, insomma, quello che so io è tutta roba cattiva. Giornata maledetta, eh? Ieri abbiamo detto addio anche ad Andrea De Cesaris, in un altro contesto, in un'altra situazione, in un altro ambito, però sai, certe volte viene da pensare che proprio nel mondo delle corse quasi nulla succeda per caso, no? Capricci del destino. Capricci del destino, bravo. Ah, sì. Pazienza, mi spiace anche per Andrea, ma questa è un'altra cosa, questa è un vecchio signore che ha avuto un incidente di moto, entriamo in un altro ambito. Insomma. Certo. Grazie Giorgio. Grazie a voi, cari. Buon Alla lavoro. Prossima. Grazie a Giorgio Terruzzi. 800 24 00 24, ripeto, le condizioni di Jules Bianchi sono davvero molto gravi. Adesso io continuerei a... non ho ancora avuto modo di parlare con gli ascoltatori, mi risulta che il centralino si è stato preso d'assalto e adesso ci parliamo con gli ascoltatori all'800240024. È anche vero che insomma ieri si danno e si prendono anche per l'Udinese, l'Udinese poteva essere terza e invece no, perché al Cesena è stato dato un rigore che non c'era e anche quelli dell'Udinese se la sono presa. Sono anche in questo caso capricci del destino. La notizia vera, però, al di là della partita, e tra poco parliamo anche di questo, al di là della partita di Torino, sono i tre fischi che ha preso l'Inter. Ora, io ho sempre difeso il Mazzarri e il progetto Inter, mi sento di farlo anche oggi, anche se non è facile, perché onestamente se la partita con il Cagliari poteva essere qualcosa di paradossale, la sconfitta di Firenze invece racconta qualcosa di profondamente diverso. Massimiliano D'Ancona, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie di avermi Dica. Chiamato. Dunque, volevo fare due considerazioni sulla partita della Juventus e la Roma. Io sono un arbitro, quindi voglio fare un'analisi tecnica se in brevissimo tempo. Sì. L'errore fondamentale, se mi permettete, poi vorrei anche il vostro parere, c'era all'inizio, dunque, innanzitutto la designazione sulla quale si può parlare, ma su Marchisio c'era un rigore solare con l'espulsione, evidentissimo. Quindi da lì, verosimilmente, Rocchi, che non è nuova a queste prestazioni un po' altalenanti, probabilmente ha avuto anche un rapporto difficile con i suoi assistenti. Tanto è vero che il rigore dato per fallo di Maicon, il fallo di mano, Rocchi evidentemente aveva segnato un'altra cosa, poi è stata fatta cambiare idea, eccetera, eccetera. Ma il problema fondamentale è che noi non dobbiamo poi da questi episodi far, ho sentito anche Liguori, voglio dire, è esagerato poi arrivare al discorso non le trasferte, facciamo, non facciamo, perché poi dopo si alimenta davvero le violenze, si alimentano i problemi è legittimo anche lo sfogo di Totti, secondo me, magari anche a rischio di sfidare un deferimento, a rischio di sfidare una squalifica, però io posso capire la presa di posizione di Francesco Totti per quello che rappresenta, eccetera, eccetera. Anche perché vai lì e insomma, magari ai giocatori della Juve, come spesso succede, e tu lo sai, no? Sei stato un arbitro, vengono consentite delle cose, anche dei comportamenti, degli atteggiamenti, delle pressioni sugli arbitri che magari ad altri non sono concesse, e in campo queste cose le percepisci. Mi sbaglio? Giocare in casa, ma anche quando si gioca Olimpio con 80.000 persone, probabilmente l'atteggiamento di Totti non è sempre, diciamo, limpidissimo, tutto caratteriato, e sono giocatori che hanno un certo carisma. Ora, ripeto, se Rocchi, quel fallo su Marchisio da rigore ed espulsione, la partita finisce. Probabilmente non se l'è sentita perché erano 7, 8, 10 minuti, mi pare, ma tutti, è tutto il discorso che si può fare, benissimo, però noi a monte abbiamo avuto un rigore non concesso. Poi che dice, noi abbiamo l'arbitro che ha diretto la finale dei mondiali, la Champions League eccetera, ovvero Rizzoli, è giusto, designiamo Rizzoli, perfetto, però non possiamo pensare che un paese evoluto come l'Italia e Rizzoli che deve fare 39 partite o lui deve fare, no, quindi vuol dire che ci deve essere dietro di lui un gruppo di arbitri che può che va bene, può, però in una partita sì, ho capito, però in una partita, certo, come questa però, non farà 39 partite, ma ce lo mandi, certo, voglio dire, sei, certo, il miglior arbitro però, che hai, però poi, esatto, però poi siccome ci sono anche delle regole che l'AIA si è data, se Rizzoli lo usi, poi magari a fine campionato, quando c'è la partita che vale, perché noi parliamo anche di retrocessioni, magari c'è una partita tra due squadre che stanno retrocedendo, non ci puoi mandare nemmeno l'arbitro perché ne ha fatte un tot, però in una partita come questa, le due migliori squadre del campionato mandi il migliore, cioè non mi sembra un ragionamento anche conseguenziale. Poi stiamo a vedere cosa succede dopo, retrocessioni, altre partite, siamo a ottobre, va tutto bene. Mi spieghi tecnicamente il gol di Bonucci? Perché questa regola non è chiara. Sì. Guardi, il gol di Bonucci purtroppo non è chiaro quasi per nessuno. Il gol di Bonucci, il problema qual è? Che le interpretazioni che l'UEFA / FIFA dà anno per anno variano. Sì. Ci ricordiamo tutti, sì, il gol che ha preso il Napoli sul 3-1 quando era un fuorigioco nettissimo, il giocatore andava verso la palla, poi si è fermato ostacolando il difensore del Napoli e ha fatto gol l'altro compagno. Sì. Ecco, se Rocchi un gol del genere lo fanno in Champions League e l'arbitro lo annulla per il fuorigioco, e succede a livello europeo, è un macello, perché la direttiva UEFA è ben chiara, cioè il fuorigioco ormai, io non sono d'accordo, però perché si vuole spettacolarizzare il gioco, far fare gol, però il fuorigioco ormai esiste solo se il giocatore prende la palla e tira, e sì, poco, è solo quello. Poi tutti quindi noi pian piano, probabilmente a livello italiano, lo so che è difficile perché noi abbiamo un culto del calcio molto particolare. Quindi però, quel gol è regolare o no? Quel gol dal punto di vista della direttiva UEFA è regolare, perché Vidal non è diretta a Vidal, non è un passaggio. Vidal era lì perché stava salendo, però non c'era intenzione di Bonucci di servire Vidal, né in qualche modo Vidal è andato a cercare di stoppare la palla e a fare che sono una spizzata di reazione. Quindi dal punto di vista tecnico è regolare. Poi non è tecnico, cioè la regola dice una cosa. Dal punto di vista dell'interpretazione che dà l'UEFA e la FIFA è regolare. E ripeto, Napoli, Atletico di Bilbao, ce l'hanno fatto, riguardatelo, è ancora peggio perché il giocatore va verso la palla e poi si ferma, e in campo internazionale questi gol vengono accettati. Ora in Italia giustamente c'è un po' di reticenza, però questa è anche una nostra Ma si tratta di mettersi d'accordo e di, cioè, alla fine di adottare una uniformità di condotte e di comportamento, no? Non c'è dubbio, il più bravo fa la partita dell'anno, neanche su questo c'è dubbio. Il più bravo fa la partita dell'anno. Non c'è riscontro? Avrebbe potuto fare un casino anche Rizzoli? Sì, poteva fare un casino anche Rizzoli. Ma lo faceva il primo, lo faceva il più bravo, lo faceva l'arbitro della finale mondiale. Che è diverso che se lo fa uno che non ha fatto la finale mondiale, che è considerato un buon arbitro, ma che per esempio viene da due partite negative, l'ultima in Champions League negativissima, con l'errore su Felipe Melo, un'espulsione non data, un sacco di imperfezioni, e quindi è stata la scelta sbagliata da Messina. Capita, ma sono errori gravissimi. Questo è un errore gravissimo. Al di là degli errori di Rocchi? Beh, poi quello che abbiamo detto prima, no? Io sono d'accordo con questo commento molto velenoso di Fabio Caressa. Poi magari andiamo a vedere quello che succede dopo, i confronti, salvezza in cui il miglior arbitro italiano non potrà più dirigere. Intanto, in questa partita, mandi il migliore. E poi vediamo. Vincenzo Fermo, buongiorno. Sì, buongiorno. Io ieri sera ho visto la partita un tempo, poi io amo il calcio, penso come tutti voi, come tanti, poi non ho avuto più la voglia di vederla, perché in questo calcio così non mi piace, non mi piace perché, ok, gli errori ci sono, ci possono essere, ma non possono determinare una partita. Cioè io devo capire. Possono certamente determinare una partita. Sì, io voglio capire però perché capita quasi sempre che la Juve trae vantaggio da questi errori. Se gli errori sono errori, una volta vanno a vantaggio di una squadra, una volta vanno a vantaggio di un'altra. Io comincio a essere con i capelli bianchi, eppure il più delle volte capita che la Juve è avvantaggiata. Sono queste coincidenze così. Poi uno un pochino si scoraggia, ecco, secondo me. No, ma poi io sono dell'idea, guardi, che in maniera quasi paradossale questi errori finiscono per fare, ma forse del male alla Juventus stessa, che non ha bisogno di questo per vincere gli scudetti, per essere la migliore squadra d'Italia, eccetera, eccetera, eccetera, e diventa quasi difficile per la Juventus giustificare queste situazioni legittimando quelle che sono quella che è la sua forza, quelle che sono le sue vittorie. Andrea, buongiorno. Buongiorno, sono arbitro e presidente di sezione. Sì. Dal punto di vista strettamente regolamentare, in base alla circolare numero 1 dell'IFAB della stagione sportiva scorsa 2013-14, il caso del gol del calciatore Bonucci è chiaramente regolamentato. Quella rete è regolare e valida, lo si capisce guardando l'azione da dietro il portiere della Roma, quindi bene ha fatto la terna a stabilire così. È chiaro che è un caso che si avvicina al limite, però ci sono anche i casi limite di difficile interpretazione. La rete in questo caso è chiaramente valida. Per quanto riguarda quindi sono stati bravi loro? Io non so se in questo caso io dico che sono stati bravi perché la valutazione è stata corretta, chiaramente sì. Corretta. Ci sono dei casi che possono andare anche oltre, avvicinarsi ancora di più al limite, di ancora più difficile interpretazione, lì deve essere brava la terna a comunicare e a posizionarsi correttamente, l'assistente in linea, l'arbitro in una posizione in cui possa vedere com'è il calciatore Vidal rispetto al portiere della Roma e parlarsi tra di loro, visto che hanno gli strumenti di comunicazione, in questo caso i microfoni e le auricolari. Sì. Molto difficile capire chi può aver visto correttamente quell'episodio, eh? Allora, l'assistente vede chiaramente che c'è il calciatore Vidal e un altro calciatore della società Juventus in fuorigioco. L'assistente vede che sono geograficamente in fuorigioco, ma l'assistente non può vedere se il portiere ha la visuale coperta nel momento in cui parte il pallone. Questo lo può vedere solo l'arbitro ed è per quello che l'arbitro deve posizionarsi in un punto in cui vede la visuale del portiere, comunica con l'assistente, l'assistente gli dice due in fuorigioco, l'arbitro dice sì, sono geograficamente in fuorigioco ma non coprono la traiettoria del pallone rispetto al portiere, se la rete è segnata è valida. Sì. Questo sta il lavoro di squadra di una... Allora Andrea, per chiudere, veniamo alla scelta del designatore, secondo me sbagliata. Io sono un associato AIA e FIGC e quindi non può esprimersi, parlare perché rischierei gravissimo, per come cui, Totti esatto, non posso commentare assolutamente nulla riguardo a un altro tesserato FIGC come il signor Totti, quindi mi scuso ma mi astengo. Va bene, Luca da Bergamo magari non si astiene. Buongiorno. Dica. Eccoci. Si astiene anche lei? Allora, no, non mi astengo, nel senso che vabbè, ho anticipato un paio di interventi prima un mio collega, chiamiamolo così, e dice che ad esempio se partiamo dal rigore di Marchisio finisce tutto, e quindi già lì spegniamo tutto. Poi invece per quanto riguarda il rigore ad esempio su Totti, se voi guardate le immagini, Totti si alza e guarda l'arbitro come per dire che cavolo hai fischiato, e pensava addirittura che avesse fischiato fallo contro a lui, quindi manco è esultato, manco. Sul gol in fuorigioco segnano ovviamente esultanza della Juventus e non ho visto un romanista, uno, correre dall'arbitro a dire che era in fuorigioco Vidal, chi c'era adesso non ricordo. Vidal. Quindi non vedo tutto sto casino che comunque torno a ripetere. Facciamo sempre un ritroso come fa il nostro direttore Liguori. Allora, l'anno scorso, se la ricordano tutti, la partita Roma-Juventus di Coppa Italia, stiamo ancora aspettando di vedere il replay del gol che ci hanno annullato perché la palla sembra che sia uscita con la sua traiettoria aerea. Non c'è proprio il replay, non c'è proprio. Beh, però, quindi era un gol regolarissimo, però sul... in più il fallo da ultimo uomo su Giovinco è stato... Però non possiamo certo dire che il rigore, che quello dell'episodio di Maicon fosse rigore, per la precisione. No, ma su quello ok, però le cose alla fine vede che secondo me lì Rocchi ha sbagliato e poi ha sbagliato su quello di Totti perché ha dovuto compensare. E anche io ho avuto la sensazione della compensazione. Rimane il discorso a monte perché non mandiamo a scanso di equivoci il miglior arbitro che abbiamo a fischiare questa partita. Perché? Questo sono i misteri che resteranno misteri. Ma è giusto anche domandarselo, no? sì, no, no, ma è giusto anche perché la, ma ha detto bene Caressa prima nella, in quello che abbiamo fatto, in quel effetto sonoro, in quel discorso che abbiamo fatto sentire, cioè esatto. a scanso di equivoci mandiamoci il migliore, se sbaglia il migliore va bene, ha sbagliato il migliore, quello che ha diretto la finale dei mondiali. Perché complicarsi la vita? Perché stiamo a pensare che magari poi ci sarà una partita valida per la salvezza che Rizzoli non potrà arbitrare perché avrà arbitrato Roma-Juventus? No, in questo momento questa è la partita più importante. Sappiamo bene quali siano i rapporti di forza in campo, sappiamo bene quale sia anche il valore... per rigore diceva anche una cosa giusta, cioè la Roma si sta strutturando e sta spendendo molti soldi per arrivare a giocarsi in condizioni di equità queste partite, e allora deve essere, cioè è giusto mandare l'arbitro migliore, è giusto tutelare anche la Roma non me la sento io, poi Totti verrà deferito eccetera eccetera, però sinceramente quello che ha detto da capitano della Roma è difficilmente criticabile dal mio punto di vista. Tutti convocati. Hanno lavorato e hanno sudato e hanno sofferto insieme per due mesi e ne hanno passate di cotte e di crude, perché non sono stati periodi leggeri per loro, però hanno cementato un'unione soprattutto di intenti. E quando gli intenti sono comuni, le persone si avvicinano, stringono anche dei legami che non sono fisici ma sono emozionali, e questo lo si è visto stasera. Oh mia bella Madonnina, che te brille de lontan. Carlo, ci sei? Pronto? Pronto Carlo, siamo tra le 6 squadre del mondo, stai per salire sul carro, lo so, ti vedo che stai per salire sul carro. Carlo, ma ci sei? Pronto, pronto? Quale carro? Sul carro delle 6 migliori squadre del mondo, 2 settimane fa. E quindi? Quindi adesso siamo a Milano, terza fase. Bene. E quindi siamo in zona medaglie. Bene. E quindi devi essere contento. Lo sono sempre stato, le medaglie però si prendono e si vincono. Adesso non abbiamo fatto ancora niente. Adesso siamo alla pool finale, allora l'Italia dopo la vittoria di ieri sera con la Cina, e adesso ti dirò dove l'ho vista, perché naturalmente tu mi hai spedito come al solito in cima al mondo per vedere la mia adorata Italia del volley. Giocherà mercoledì contro gli Stati Uniti alle 20 qui al Mediolanum Forum, e venerdì, e io ci sarò, super inviato, contro la Russia alle 20, insomma il sorteggio più difficile per la pool finale, però ci siamo. E ieri io la partita me la sono sentita in macchina con Dario Ricci, Claudia Schiattone, mentre tornavamo dallo Juventus Stadium. Bravi. Ma ti rendi conto? Noi siamo, e non ce ne fregava niente della partita, delle Roma, delle polemiche, degli arbitri. Abbiamo ascoltato il volley in armonia, in gioia, in felicità, senza polemiche, hai capito? Perché siete dei pazzi. No, perché la verità è questa, perché siete dei pazzi. Comunque, prima di tornare a cacciare a pallonare, volevo confermare che Cruciani è caduto dalla sedia e ha rischiato seriamente di farsi male ieri sera allo Juventus Stadium, eh? Confermo. Questo lo sapevamo già. Torniamo al calcio. Beh sì, direi che torniamo a calcio con piacere, anche se le ragazze da pallavolo ovviamente stanno facendo un grandissimo mondiale, arrivano però le sfide decisive, sono dietro l'angolo e lì vediamo, perché poi le medaglie bisogna vincerle, perché poi le chiacchiere stanno a zero se non ti infili al collo qualcosa di pregiato. 800 24 00 24 è il numero verde, ma vorrei parlare anche di Inter, perché se ci stiamo perdendo nella polvere degli episodi arbitrali di Juventus-Roma, forse la notizia di ieri sono le 3 palle che l'Inter ha preso a Firenze. Ora io ho sempre detto che credo nel progetto dell'Inter, credo che Mazzarri vada difeso, credo che serva ancora un po' di pazienza, credo che l'Inter possa diventare magari una squadra da terzo posto, da qualificazione in Champions League, possa essere una squadra competitiva in Europa League. Certo, se quello della partita con il Cagliari poteva essere un episodio, allora dovete spiegarmi che cos'è la partita di ieri. Babacar si è girato bene, prova il destro! La finta, lascia sul posto l'avversario, Cuadrado! Un altro gol spettacolare! Lo firma Juan Camilo Cuadrado! 2-0! Tomovic, percussione centrale, Tomovic, troppa libertà per lui! Tomovic! 3-0 per la Fiorentina! Proveremo, anche se non è per trovare sempre alibi, sono oggettivi, un allenatore per dare un'identità di gioco deve anche lavorarci, vanno via tutti e non ce l'ho nessuno fino a giovedì, mi sembra, e non è facile provare anche un modulo diverso. Queste sono oggettività, se poi si dirà che devo trovare sempre qualche scusa lo direte, lo diranno, io lo devo dire, almeno questo lo devo dire. Allora, Andrea Sorrentino, inviato di Repubblica, Inter a picco, Mazzarri nella bufera, è il titolo del tuo pezzo di oggi da Firenze. Ciao Andrea. Ciao a tutti, no, ascoltavo la tua premessa sul lavoro di Mazzarri, sul progetto, sulla possibilità che la stagione offra ancora cose positive, ed è un ragionamento giusto, è un ragionamento da dirigente, diciamo così, è il ragionamento che in questo momento i dirigenti dell'Inter stanno facendo e devono fare, anche perché devono essere coerenti con se stessi, sono loro che pochi mesi fa hanno allungato il contratto di Mazzarri credendo nel progetto Mazzarri e prolungando l'accordo fino al 2016. E proprio per questo motivo io non vorrei essere per nessun motivo al mondo in questi giorni un dirigente dell'Inter, perché poi c'è una situazione invece oggettiva, reale, sotto gli occhi di tutti, che è molto preoccupante. Sì. E quindi questo mette a rischio dell'immediato futuro la panchina di Mazzarri in qualche modo, anche se c'è un progetto Mazzarri in cui l'Inter crede, perché le ultime due partite, non soltanto quella di ieri ma anche quella col Cagliari, sono state molto molto allarmanti. Sì. perché le sconfitte arrivano, possono capitare, ma in questo modo a distanza di 7 giorni non può capitare. Una squadra come l'Inter non può prendere 7 gol a 1 in due partite contro Cagliari e Fiorentina. Andrea, siamo perfettamente d'accordo. Sì. Allora, dimmi cosa è successo. Cioè, dimmi qual è la colpa di Mazzarri, dimmi cosa è successo. Cosa si è rotto nella crescita di questa squadra? Fino a Inter-Atalanta 2-0 del mercoledì di campionato di 10 giorni sì. fa, a me sembrava che l'Inter fosse una squadra in crescita e con dei margini di miglioramento. Perfettamente d'accordo. Poi, in quei 3 giorni, tra Inter-Atalanta e Inter-Cagliari, sono accadute cose che forse conosceremo più in là, ma di sicuro Mazzarri e tutta l'Inter hanno preparato malissimo quella partita, sono crollati e in quel momento si sono sbriciolate tutte le flebili certezze che tutti si erano costruiti addosso, e da quel momento in poi l'Inter non è più risalita, ieri sera è di nuovo franata. Vuol dire che c'era una debolezza e una fragilità strutturale di cui nessuno si era accorto e che invece è venuta alla luce. È una debolezza, una fragilità che chiama in causa la preparazione atletica per prima cosa, perché l'Inter non corre, è piantata sulle gambe. E non vale la cosa degli impegni di Coppa, perché ce l'hanno anche la Fiorentina, ad esempio. Sì. Ieri sera ha schiantato l'Inter, che 3 giorni prima aveva giocato in Bielorussia. Quindi preparazione atletica che non va bene. Molti equivoci tattici, perché Mazzarri non è uscito dall'equivoco di queste 3 mezze punte che sono troppe per lui, cioè Kovacic, Hernanes e Guarin, che non sa come mettere in campo, o non è riuscito a mettere in campo in modo giusto. Mm. E poi c'è una questione psicologica di tenuta mentale che è molto molto allarmante. È come se la squadra non ricevesse e non recepisse le sollecitazioni di Mazzarri, o addirittura le recepisse al contrario, perché lui continua a fare grandi discorsi di carica, di fortino, sì, di cose, sì, ma sì. Poi la squadra va in campo con le gambe. Molto banalmente, Andrea, credi che si sia rotto qualcosa nel rapporto tra la squadra e Mazzarri? Sostanzialmente c'è una sottile disistima di fondo che sta emergendo di Mazzarri nei confronti di molti suoi giocatori e a questo punto di molti giocatori che non gradiscono, non apprezzano l'impostazione tattica generale che dà Mazzarri alla squadra. Mi risulta che molti giocatori siano perplessi su questi assetti che non sono abbastanza offensivi. E quando ci sono problemi di questo tipo, la palla passa tra i piedi della società, no? Esatto. In breve, Mazzarri è molto sostenuto dal direttore generale Fassone e dal direttore sportivo Ausilio, che sono stati i suoi sponsor più convinti in questa estate in cui poi Mazzarri ha ottenuto il famoso rinnovo del contratto. Quindi anche Fassone e Ausilio, non è casuale. No. Certo. Anche Fassone e Ausilio sono molto legati a Mazzarri, in qualche modo si giocano con Mazzarri la loro credibilità nei confronti della proprietà. Quindi in questo momento i tre sono senz'altro molto uniti, perché magari l'insuccesso di Mazzarri potrebbe diventare l'insuccesso dei due dirigenti, quindi questo sta valutando. Certo, si stanno valutando queste cose. Io credo che fino a Inter-Napoli Mazzarri rimarrà lì per forza, ma non può non rimanerci, perché poi davvero la sosta manda in giro per il mondo tutti i giocatori, non avrebbe senso un cambio adesso. Però le prossime partite saranno molto importanti e attenzione, c'è un'altra cosa di cui non abbiamo parlato. Io non ricordo a mia memoria un allenatore dell'Inter che abbia una tale unanimità di critiche da parte di tutta la tifoseria compatta. Sono molti mesi ormai che Mazzarri viene fischiato allo stadio, sono molti mesi che Twitter vari si scatenano col Mazzarri vattene. Ieri sera addirittura uno come Enrico Mentana, non so se sapete, ha scritto le parole di fuoco sul suo profilo di Facebook dicendo Mazzarri svuoti l'armadietto. Insomma, c'è una convergenza di critiche e di disistima che io non ricordavo in un altro allenatore, cioè, e anche quelle peseranno alla lunga, temo. Sì, ecco. Ma un'ultima cosa, domani arriva Toier e caccia via Mazzarri, l'Inter ricomincia da capo. Infatti, ma infatti di questo si tratta, no? Cioè, non avrebbe molto senso neanche questo. I nomi sono quelli di Zenga, ad esempio. Sì, Zenga tra i più gettonati, tra i nostalgici dell'Inter, ma insomma, Zenga come allenatore non è Mourinho, insomma, non è uno che ha un palmarès tale da allenare una squadra come l'Inter, no? Esatto, però non ce ne sono molti in giro che possano in questo momento prendere l'Inter e risollevarla con uno schiocco di dita. Io credo che in questo momento la società debba essere coerente con le proprie scelte e anche se sono state due sconfitte gravissime debba continuare ad avere fiducia nell'allenatore, perché non può che farlo. Però, ragazzi, c'è un investimento da 14 milioni di euro lordi sul contratto in tempi grami si deve fare caso anche a queste cose, per cui io credo che Toir per adesso, anche se molto deluso, seccatissimo, addirittura fluente, debba in qualche modo sostenere l'allenatore, altrimenti non sarebbe un manager indonesiano che ha studiato in America, ma sarebbe un presidente del calcio italiano. Quindi, certamente, sarebbe un normale presidente del calcio italiano. Andrea Sorrentino, grazie. A voi, ciao. Ciao Andrea. Ci fermiamo per il traffico? Sì. Su due partite in questo modo dove fai perdi 4-1 e 3-0 si converrebbe stare zitti per dire colpa nostra, abbiamo sbagliato, io sono responsabile, i ragazzi sono affranti, lo sanno, e dire almeno ancora meno di quello che ho detto. Tutti convocati. Allora, vi do una notizia ufficiale. La Supercoppa italiana tra Juventus e Napoli si giocherà a Doha. Il 22 dicembre, lo ha annunciato a Parigi il numero 1 della Lega, Beretta. Poi, sono un tifoso dell'Inter, forse lo sapete. Come succede a ogni tifoso, ho sofferto e gioito per la squadra che ho scelto da piccolo e per cui tiferò per sempre. La passione ti esalta quando vinci e ti forgia quando le cose vanno male, ma tutto ha un limite. E il signor Mazzarri quel limite l'ha ampiamente superato, sfigurando la mia povera Inter in una brodaglia di non gioco che allontana gli appassionati. Ci vuole una scossa e dopo aver visto stasera l'ennesima incolore partita, credo che Mazzarri quella scossa la possa dare in un solo modo, svuotando l'armadietto. Firmato Enrico Mentana. Andrea, provincia di Bari, buongiorno. Buongiorno, complimenti non solo di Prammatica. Grazie. Per restare in tema, riflettevo esattamente su queste cose. Io credo che ci sia una parola da rimettere, da ridare centralità, ed è esattamente l'istituto delle dimissioni. Ecco, le dimissioni credo che fanno onore soprattutto a chi le pensa e le attua, sì, e le pratica. Sì. Ecco, nel ma caso a chi ci riferiamo? A Mazzarri? Nel caso di Mazzarri, perché è patetico, è semplicemente patetico pensare a una squadra stanca, non c'è un'idea di gioco, non è assolutamente propositivo sentire le dichiarazioni ieri, le avete riproposte. Sì. Certamente c'è un grosso investimento della società. Siamo, Andrea, siamo lunedì 6 ottobre, ok, non è presto per dire questo progetto è fallito, ricominciamo da capo, è vero, dopo che abbiamo passato l'estate a dire questa squadra finalmente è una squadra per Mazzarri, è una squadra che è stata costruita anche con grande intelligenza e sagacia sul mercato impatto zero, è una squadra completa, eccetera eccetera. Allora, lunedì 6 ottobre, cestiniamo tutto? Queste obiezioni, però io non vorrei riproporre le solite argomentazioni trite, ritrite, pro, contro. Io faccio una considerazione semplicissima: non è possibile essere ai primi di ottobre ed essere esattamente con tante giornate al termine, con tanti punti ancora in palio, però meno 10 dalla vetta. Ora, non la vetta non squadra... fa testo, la vetta, Andrea, per l'Inter la vetta non fa testo. D'accordo, non è una squadra costruita per vincere lo scudetto, per carità, però certamente l'Inter, proprio per anche il recente passato, glorioso recente passato, come dire, ha l'obbligo, al dovere di stazionare, come dire, nella sfera alta, sì, quindi sì, comunque sì, nelle primissime posizioni. Sì. Ora certamente si può anche perdere a Firenze, ma io credo che sia importantissimo come si perde. Cioè il passaggio. No, ma sono d'accordo, ma guardi, ma io sono d'accordo su, allora... guardi, io sono d'accordo sul fatto che l'Inter ha fatto 1, 2, 3, 10 passi indietro. La partita con il Cagliari poteva essere un episodio anche fin troppo clamoroso per essere indicativo. È chiaro che la riprova di ieri sera a Firenze, allora, sta ad indicare, come ci diceva Andrea Sorrentino, che c'è qualcosa di più grave, di più profondo. Quello che mi limito a dire è che, ripeto, lunedì 6 ottobre, leggo Inter 8 punti, certamente sono pochi. La Fiorentina, che ieri gliene ha dati 3, ha un punto in più. Il Milan di punti ne ha 11, il Napoli ne ha 10, cioè 2 in più rispetto all'Inter, e poi ci sono le meravigliose Sampdoria e Udinese, Sampdoria 14, Udinese 13. Allora, intendiamoci su quale può essere il valore assoluto dell'Inter. Secondo me l'Inter è una squadra che ha un organico da terzo posto, se riesce ovviamente a risolvere i suoi problemi, a costruire, eccetera, eccetera, eccetera. I punti dalla vetta, cioè il distacco da Juventus e Roma, secondo me è scarsamente indicativo. Andrea da provincia di Bari abbiamo parlato, Davide da Milano, e poi salutiamo tutta la compagnia. Davide, buongiorno. Buongiorno. Dica. No, io tenga presente che io non sono un grande tifoso di calcio, però tengo la Juve da quando sono piccolo e quindi sono di parte, lo ammetto. Sì. Però devo dire una cosa, scusi. Ieri sera io per la prima volta dopo mesi ho guardato una partita di calcio. Perché ero in casa per sbaglio. Sì. I primi 10 minuti si buttavano fuori un paio di quelli della Roma, non c'era nulla da dire. Ricordo, il rigore era pieno, io non me ne intendo, però era chiaramente un rigore. Quale? Quello su Marchisio? Fuori... Quello, sì, su Marchisio? Sì, ecco, io non sono un gran intenditore, penso Marchisio. Era enorme. Se avesse buttato fuori quel calciatore, io le chiedo solo questo, no? Perché lei dice Totti ha ragione a dire quel che dice. Benissimo, io non ho visto tutta la partita, quindi può darsi che siano successi degli altri elementi più importanti. Oh, caspita, se io chiedo se i primi 10 minuti avessero buttato fuori Marchisio, cosa succedeva? 4-0 per la Juve, non c'era nulla da dire? Non lo so perché non, non lo so perché non abbiamo la riprova. Abbiamo avuto, ho capito, però abbiamo avuto una partita costellata. Abbiamo avuto una partita costellata da errori con un pessimo arbitraggio. Ma no, ma questo è fuori dubbio, però scusi. Sento dire tutto il giorno che lo si dice, guarda, io non sono un gran tifoso. Ma fa benissimo, ma fa benissimo. Ho dovuto chiamare per fare i complimenti a Pardo per la Canalis, ad esempio. Certo, sta chiaro, è l'unica... La Canalis secondo me è fantastica, quindi secondo me andrebbe ovunque, in diretta, soprattutto col vestito bianco. Comunque, per saltare qua, sperando che mia moglie non sia alla radio... Sì, speriamo, se no la giustifichiamo noi nella... La Canalis è veramente meravigliosa ultimamente. Beh, però adesso non esageri, perché sennò poi diventa difficile giustificarla. Ok, perfetto. No, stavo dicendo adesso. No, dai, è chiaro. I primi 10 minuti. Allora, quello che dico io è che io detesto spezzettare le partite in 1000 episodi, polverizzarle in questa maniera. La Juventus ha giocato bene all'inizio e poi è cresciuta molto, molto alla fine, cioè ha giocato una splendida partita. Detto questo, insomma, se diciamo ok, quello su Marchisio, e allora quello di Maicon che però non c'era, che gliel'hanno dato, e allora poi quell'altro di Pogba che vediamo se è dentro o non è dentro e quanto è lunga l'area, è stato un pessimo arbitraggio, e tutto sommato in questo pessimo arbitraggio la Juventus ha tratto qualche vantaggio. Semplicemente questa è la credo sia la cronaca. Franco Piantanino, autore di questo programma, Fabio Cantadori in regia, Claudia Schiattone in redazione. Ciao a tutti, ci sentiamo domani alle 2. Domenzinian! Scusa, cazzo! Dai, Caracunis! Domenzinian! Ti devo dare il giallo, cazzo! Lascia perdere! Wait, then, yellow! Ma ti appoggio, vieni! Sono 100% chiare! 100%! Non facciamo cazzate alla fine! 3, 2, 1, and...